è una festa di colori. Quando viene la primavera, a rapallo tutti i fiori, sai, mi parlano di te. Oh mia bella forestiera, dagli occhioni come il mare, io ricordo quando a sera ti tenevo stretta a me. Oh dolcissima Rapallo, città d'oro illuminata dai tramonti di corallo, lo smeraldo del tuo mare e l'azzurro del tuo cielo ogni coppia fa sognare. Del Tiguglio sei la gemma, paradiso degli amanti, dell'amore sei la fiamma. A Rapallo c'è la vita, c'è la gioia dell'amore, la felicità infinita a Rapallo puoi trovare. Paradiso degli amanti, dell'amore sei la fiamma. A Rapallo c'è la vita, c'è la gioia dell'amore, la felicità infinita a Rapallo puoi trovare.